Léonie Aviat nasce il 16 settembre del 1844 a Sézanne, una cittadina in Francia nel territorio della Champagne. È la seconda e ultima figlia dei coniugi Aviat. Il papà, che è una persona benestante, si chiama Théodore, uomo autorevole, commercia sia all'ingrosso che al dettaglio delle granaglie e lino in una merceria-drogheria di sua proprietà. I genitori della nostra santa sono delle brave persone, anche se non molto praticanti, ma tengono che le figlie dovevano avere allora la migliore educazione, così come conveniva a quella che era la loro condizione sociale di benestanti, e per questo la strada allora da seguire era il loro inserimento in un collegio di un convento che avesse già comunque una certa tradizione. Già la sorella maggiore della nostra santa, che si chiamava Zulmè, era stata affidata al convento delle Visitantine di Troyes, della cittadina di Troyes. Quindi anche Léonie viene inserita in questo convento, convento di cui si dice un gran bene e che è diretto da una mistica attualmente venerabile, da Suor Maria di Sal. Suor Maria ha come assistente ecclesiastico padre Luigi Brisson, uomo pieno di fede, di carità. Possiamo definirlo un sacerdote infaticabile, di un apostolato incessante, che pur tra mille soste conserva con amore e con generosità il suo ruolo di cappellano e soprattutto di direttore spirituale per le molte ragazze presenti nel collegio, nel pensionato del convento. Sa, capisce e comprende quale può essere nella società e nella Chiesa il peso di una donna che sia veramente cristiana, e dedita pienamente alle sue responsabilità sia di sposa che di madre. È un uomo però che punta al sodo, ci viene detto è uno che non ha peli sulla lingua. Ne testimonia la stessa Léonie sugli appunti presi dopo il ritiro spirituale del 1858, dove il padre invitava queste allora erano 85 ragazze a prendere delle decisioni serie, concrete, a non fantasticare, a non essere ipocrite, e interrogarsi in modo sincero su quella che era la loro vocazione. Léonie è proprio fra queste, fra quelle che pensano alla vita religiosa, ma in quel momento né Madre Chapuis, quindi Madre Maria di Sal, né Padre Brisson le danno una risposta chiara. Per il momento le chiedono di dedicarsi solamente a quella che è la sua vita di giovane allieva in quel momento nel collegio. A suo tempo Dio farà conoscere la sua volontà. È un cammino, cari amici, di abbandono, già da piccola, lungo il quale un giorno il padre spirituale la guiderà lontano, come vedremo. In quel periodo, proprio nella vita dell'abbé Brisson, la cui esistenza, come vedremo, sarà strettamente legata a quella della nostra santa, avviene una svolta decisiva. Infatti, Monsignor de Ségur lo ha sollecitato, lo ha invitato ad assumere a livello diocesano la responsabilità dell'Associazione Cattolica di San Francesco di Sal, che proprio egli ha appena fondato. In poche parole, cari amici, vista la situazione allora della nuova industrializzazione della Francia in particolare e della città di Troyes, si cercava di fare una nuova evangelizzazione. L'associazione prende piede rapidamente e si espande, sempre nella città di Troyes, e permette proprio di scoprire quanta miseria materiale e morale, gravi e rovini in molte famiglie di quella città in piena espansione industriale. E quindi ci si fa carico di tutte queste situazioni di bisogno, di sfruttamento che ci sono. E in modo particolare proprio queste allieve della Visitazione del convento sono direttamente coinvolte nel sostegno, nello sviluppo e nel funzionamento dell'opera. E quando apprendono che nelle vicinanze del pensionato, quindi del convento, in Rue de Terrasse, il loro cappellano, cioè padre Brisson, sta per aprire una casa di accoglienza per le giovani operaie dei maglifici, il loro interesse e la loro generosità si raddoppiano. Arriviamo al 1860 e qui la permanenza nel convento sta per finire. In luglio si chiudono questi 5 anni in cui Léonie è stata ospite, insieme a tutte le altre ragazze che prenderanno una decisione, quindi chi vorrà continuare una sua vita spirituale potrà farlo e quindi poi entrare nella congregazione, e chi invece uscirà per sposarsi o per fare altro. Ma troviamo nella nostra santa un profondo cambiamento, soprattutto di vita interiore. E qui possiamo dire che abbandono, fedeltà, confidenza illimitata nell'amore di Gesù Sono, possiamo dire, queste le impronte lasciate in Léonie da quello che lo spirito di San Francesco di Sales, scoperto e vissuto nel pensionato del convento. Ma Léonie, dopo questi 5 anni, ritorna a Cézanne e per i suoi genitori, soprattutto per il papà, è un incanto. Lei a casa studia, prega, sacrifica. Il papà cerca allora anche di rendersi simpatico, facendolo scoprire i dintorni della cittadina. Ma non sa però dei segreti desideri della figlia, del volersi fare suora, quindi di vivere in un convento contemplativo. Benché lui comunque non sia praticante come molti dei suoi contemporanei, lascia alla figlia la libertà di dedicarsi alle sue devozioni. È così che a partire dal 1862 ritroviamo entrambe le sorelle, quindi sia Léonie che Zulmé, la sorella maggiore, in ritiro presso Madre Chapuis, Madre Maria di Sales. Proprio in questa occasione, l'abbé Brisson, che è sempre cappellano all'interno del convento, traccia di suo pugno un regolamento, possiamo dire, pieno di moderazione e di equilibrio per questa sua figlia spirituale, per Léonie. Soprattutto chiede a lei un totale abbandono a Dio. Nel frattempo, per la nostra santa, si presenta un partito vantaggioso, cioè la chiedono in sposa. Il padre desidera molto questo matrimonio, ma Léonie non si pronuncia, domanda anzi di poter riflettere, prende tempo, non osando però svelare almeno per il momento la sua intenzione. Il papà insiste, ma non comprende questo suo dilazionamento, questo suo dilazionare la risposta. E qui un avvenimento imprevisto e anche doloroso, diciamo che mette fine a queste ore penose da cui la nostra santa non vedeva l'uscita. Cos'era successo? Che un eccesso di fiducia trascina il signor Aviat nel disastro finanziario. E qui la mamma e anche le figlie soffrono molto vedendo quest'uomo ferito, scoraggiato davanti, possiamo dire, al dissolversi del frutto di una fatica così, così paziente e coraggiosa. Ma di colpo anche il pretendente, il cui interesse principale era probabilmente il patrimonio del papà di Léonie, scompare, si volatilizza. E qui Léonie, da parte sua, non può che, dispiaciuto per il papà, ma non può che gioire per questa possibilità di uscirne senza aver dato un dispiacere al padre, ecco. E quindi riparte per Troyes per chiedere a Madre Maria di Sales la possibilità di entrare in convento, di cominciare a essere novizia, postulante. Ma la madre, che è una donna di preghiera, come dicevamo appunto, è venerabile, le risponde: figlia mia, resta ancora un po' con i tuoi familiari, perché ciò che il buon Dio ti destina non è ancora pronto. Anche padre Brisson è dello stesso avviso e gli dice di attendere con pazienza. Anche qui vediamo la grande fiducia che Léonie riponeva in quella che era sia madre Maria di Sales che in padre Brisson, di questa attesa, di questa fiducia in Dio. La ritroviamo a Troyes sempre con l'abbé Brisson, con padre Brisson, che ha 21 anni, ha la maggiore età. Adesso anche il padre si rende conto e comprende che è giunto il momento di rivelarle che lui la aspetta proprio all'opera di Rue de Terrasse. Ma prima, diciamo, le illustra quelle che sono queste sue fondazioni che il padre aveva creato lì a Troyes, nella città di Troyes, senza nasconderle le difficoltà. Poi insieme andranno sul posto e in seguito Dio farà il resto. Ampliamo un po' questo aspetto, cari amici. Troyes è una città industriale allora e un gran numero di donne e di ragazze, se ne parla di circa 30.000, sono impiegate nelle fabbriche, nella filatura e nei laboratori. Sono sfruttate e usate senza nessuna umanità. E qui proprio padre Brisson, che aveva un cuore veramente sacerdotale, pieno di Dio, non aveva potuto assistere a questo scempio, a questo degrado, senza cercare di intervenire, di porvi rimedio. E il locale proprio in Rue de Terrasse a Troyes, nella città di Troyes, benché non risponda ancora a tutte le esigenze, è stato almeno sufficiente per accogliere una 50ina di ragazze che, sotto la guida di persone di volontarie, ma possiamo chiamarle direttrici, ma di apostole, hanno creato un'unione, un'amicizia che ha già prodotto risultati molto incoraggianti. Bisogna però fare di più. offrire quindi un tetto a tutte quelle ragazze che vengono da lontano e sono costrette all'isolamento che poi le porta irrimediabilmente a cadere sulla strada. Quindi sono costrette all'isolamento nella città della Champagne e anche a quelle che la tentazione di una vita indipendente rischia poi di far finire male. E qui ben presto, diciamo quasi naturalmente, ma grazie alla, diciamo alla fiducia che padre Brisson riscuoteva, le case diventano dei laboratori dove il lavoro fornito dagli industriali viene effettuato proprio lì sul posto. E due scelte si presentano allora a queste ragazze che arrivano da tutta la Francia, da tutta la zona di Troyes per venire a lavorare, cioè o abitare proprio all'opera oppure essere esterne ma comunque collegate ad essa, anche perché quest'opera le difende. Allora non c'erano sindacati, non c'era nessun diritto. Quindi agli inizi la fondazione conosce una rapida diffusione, anzi il padre si reca a Roma allo scopo di sollecitare anche la benedizione e i consigli di Pio IX per questa sua impresa. La situazione però, quando il padre conduce per la prima volta la nostra santa all'opera de Terrasse, non è brillante. Infatti la stanza di lavoro occupa il piano terra e le operaie, quando loro arrivano, sono riunite. Qui, entrando nella sala, illuminata interiormente, Luni sente che il suo posto è qui. E qui in mezzo a queste giovani, alcune delle quali le sembrano addirittura delle bambine, sono talmente piccole. E insieme a lei ci sarà una sua aiutante, sarà Lucia Canuet. Ebbene, l'11 aprile del 1866 le due giovani depositano all'opera de Terrasse il loro povero bagaglio, poi si recano subito al monastero della Visitazione per prepararsi a questa grande opera. E presso Madre Maria di Sal passano 8 giorni di ritiro in silenzio, è la stessa madre che guida gli esercizi del ritiro. E qui, cari amici, Léonie comprende che la sua consacrazione religiosa sta per realizzarsi in modo del tutto originale. Sarà fondatrice insieme a padre Brisson, quindi senza ritornare nella sua famiglia, con Lucia Canuet entrerà nell'opera. Ma voi pensate, lei ha sempre avuto nel cuore, come abbiamo visto, sentito poco fa, l'idea di entrare nelle visitandine, quindi in un monastero di contemplative, e invece il Signore l'ha chiamata da tutt'altra parte. Lei accetta, anzi annota nel suo quaderno durante il ritiro spirituale. Qui, dice, nel convento, prenderò la forza per superare le difficoltà, gli ostacoli che vi si incontreranno. Non rifiuterò al mio Dio la croce che Egli mi presenta e, secondo il suo esempio, voglio portarla con amore, senza toglierle niente, animandomi con questo pensiero. Per Dio bisogna soffrire, soffrire tutto fino alla morte per conquistare l'eternità, e così sia. Poi aggiunge: domani, 18 aprile, entrerò con Lucia Canuet nell'opera di San Francesco di Sal. E qui dobbiamo dire che con Léonie e Lucia un sole di primavera, possiamo dire, entra alle Terrasse. Le giovani operaie sono ben presto, in un primo momento erano piuttosto scettiche, ma invece ben presto sono conquistate dalle due ragazze, belle e distinte come signore, eppure semplici come sorelle maggiori. In modo particolare quando le vedono condividere pienamente la loro povertà, senza dimore di sciupare le belle mani nei lavori anche più umili. E padre Brisson affida alla nostra santa l'organizzazione generale dell'opera e dei 4 patronati annessi. Lui va, viene, smorza i conflitti, risolve le difficoltà. Ma proprio in questo periodo comprende che il Signore gli domanda di fondare proprio una congregazione vera e propria. In fondo l'opera era, diciamo, un inizio, un'associazione, ecco, non era una vera congregazione. Questo, pensa padre Brisson, potrà continuare la sua opera anche nel tempo, anche quando lui non ci sarà più, come vedremo. Ma questo stimola anche Léonie e Lucia ad organizzare subito una vita di comunità. Qui sempre padre Brisson acquista anche una casa adiacente a quella dell'opera. E da allora prende in mano personalmente la formazione spirituale delle sue figlie. Ogni domenica alle 11 si recano alla visitazione e nella sacrestia tiene loro un'istruzione, ma riversando nel loro cuore, nel loro animo, quella che è la sovrabbondanza della sua vita interiore e piena di Dio. E un tale fervore, cari amici, un tale amore per il Signore non può non attirare altre vocazioni. Dapprima una giovane vedova, guarita miracolosamente da un male incurabile, come segno della sua vocazione viene ad unirsi alle dame di San Francesco di Sales. Poi un'istitutrice che, dopo aver aperto alle Tosselles, un'altra zona della città di Troyes, la prima scuola elementare della congregazione, si mette sotto la guida di padre Brisson, ma altre attendono di entrare. Ed è tempo anche quindi di scegliere definitivamente un nome e un abito religioso per l'istituto. E qui Monsignor Monmilliot, che è il successore di San Francesco di Sales come vescovo di Ginevra, arriva il 28 ottobre del 1868 nella città di Troyes. E Monsignore non può nascondere il suo stupore, ma anche la sua gioia, cioè una congregazione che vivesse, secondo lo spirito della visitazione, era tra i suoi desideri, ed eccola qui, in questo germoglio rigoglioso, possiamo dire, che mette radici nella terra della Champagne. Il 30 ottobre del 1868 consacrerà questa fondazione, dando loro il santo abito con un nome nuovo, simbolo del loro invio in missione. Infatti, la denominazione dell'istituto divenne ufficialmente la Congregazione delle Oblate di San Francesco di Sales, e infine il nome della prima oblata, che possiamo dire la fondatrice insieme a padre Brisson, che è Suor Francesca di Sales, è il nome che prende la nostra Santa Léonie. Possiamo immaginare la gioia di padre Brisson. E qui ci si rimette al lavoro, perché la vita continua e bisogna darsi da fare. E Suor Francesca, ormai la chiameremo così, Suor Francesca di Sales, non perde un minuto e si applica in modo veramente salesiano, possiamo dire. Vi riesce così bene che tutte le testimonianze delle sue compagne concordano, e un'anima di pace e porta pace. E le case si ingrandiscono e il numero delle pensionanti obbliga a costruire case nuove. Quella di Tosselles avrà il suo internato. Intanto Monsignor Ravinet domanda a padre Brisson di prendere in mano anche l'unico, Monsignor Ravinet, il vescovo di Troyes, gli domanda di prendere in carico l'unico collegio cattolico maschile della città, che sta però per estinguersi. E non è, cari amici, un affare da poco, e senza locali, senza personale, ma il padre vede l'occasione di gettare le basi di quella congregazione di sacerdoti di San Francesco di Sales, di cui da più di 20 anni parla con madre Chapuis, con l'altra madre Maria di Sales, del convento delle Visitandine. Nasceranno proprio da qui gli oblati di San Francesco di Sales, con il loro primo edificio scolastico, che è il collegio San Bernardo. La nostra santa, intanto, con il suo senso di responsabilità, anche di affetto, allivia per quanto è possibile anche il fardello del fondatore, sempre presissimo da 1000 impegni. I tempi sono però difficili e le prove si susseguono. Il 28 marzo 1869 muore il papà di Léonie, Teodoro. Pensate, lei non l'ha più rivisto poi da quando è entrata in congregazione. Possiamo immaginare il dolore che prova per questa perdita. L'anno del noviziato prosegue, ma c'è anche purtroppo la guerra. E qui, a causa della guerra, la cerimonia della professione religiosa dovrà essere rimandata. E questo conflitto esplode il 19 luglio del 1870 tra Francia e Prussia, Francia e Germania, con quello che sappiamo il suo corteo di angosce e di miserie. E qui le fabbriche a Troyes cessano la loro attività, molte ragazze vengono licenziate, non c'è più lavoro per gli operai, ma soprattutto manca il pane, mancano i viveri. Quindi bisogna rimandare in famiglia tutte le ragazze che possono esservi accolte, e per le altre, cari amici, non c'è che da confidare nel Signore, che sicuramente non abbandonerà queste sue piccole spose. E questa fiducia è ripagata e ricompensata. Il laboratorio delle Terrasse si trasforma in sartoria per le divise militari. Almeno il pane quotidiano è assicurato. Ma non ci si ferma lì. A Saint-Rémy de Tourcelles 80 operaie sono disoccupate. Non hanno di che mangiare. Suor Francesca ha l'idea ingegnosa di insegnare a queste ragazze grandi, quasi tutte analfabete, al mattino a leggere e a scrivere e al pomeriggio tagliare e cucire. E quindi raccatta a destra e manca dei vestiti usati che gli operai aggiustano. La fondatrice stessa si incarica di questo laboratorio fuori dall'ordinario che trasforma il grande refettorio in una bottega di rigattiere. Proprio in questo modo aiuta queste ragazze a sbarcare il lunario. Così, senza troppi danni, si supera la bufera, ma dopo il Trattato di Francoforte del 10 maggio del 1871, Troyes vede sopraggiungere dall'Alsazia un numero considerevole di profughi, perché sappiamo che, avendo la Francia perso la guerra, quindi Napoleone III dà la sua resa ai tedeschi, sia l'Alsazia che la Lorena vengono annessi alla Germania. Naturalmente buona parte dei cittadini di queste due regioni escono dall'Alsazia e dalla Lorena e si riversano nelle regioni limitrofe. E qui l'apostolato della nostra santa è senza soste e dona a se stessa per aiutare, soccorrere, curare quanti sono nel bisogno. Lo sforzo è enorme ed ha una prima grave caduta nella salute, ma prega intensamente perché e chiede in modo particolare a suo patrono, San Francesco di Sales, la forza di continuare, di aiutarla a guarire. Viene esaudita e a questo proposito sente nel cuore queste parole. Mi sembrava, dice la nostra santa, che questo buon padre, cioè che San Francesco di Sales, mi dicesse: tu non godrai della salute, ma avrai tutta la forza necessaria per quello che Dio ti domanderà, ma non trascurare niente. In effetti sarà così. Ora, dopo la bufera della guerra, il più grande desiderio è quello di pronunciare finalmente i voti. E si pensa di farlo in autunno, ma un'altra grave ricaduta della sua salute fiacca Suor Francesca. Attraverso un momento di grande pena, non di scoraggiamento, perché Dio dice, lei scrive: Dio mi ha fatto la grazia di non conoscere lo scoraggiamento. Comunque si riprende e, riconfortata, entra in ritiro il 4 ottobre insieme con Suor Giovanna Maria e le quattro postulanti che stanno per ricevere il santo abito. La cerimonia avrà luogo il giorno 11 e proprio la cappella delle Tosselles, più spaziosa di quella delle Terrasse, siamo sempre nella città di Troyes, è più adatta a quella che è la famiglia ingrandita e sarà questo il luogo della donazione delle prime due oblate. Léonie, Suor Francesca, ha 27 anni. E la messe cresce, cari amici. Le due professe ne sono proprio i primi frutti, ma altre novizie stanno per prendere il velo e ci sono postulanti che aspettano il loro turno. Assetata la nostra santa per la salvezza delle anime, e quello che sente nel cuore in modo forte, possiamo dire dirompente, e il 21 aprile del 1872, durante un piccolo ritiro, dopo aver visto per un istante padre Brisson, confida al suo diario personale, scrive: il pensiero di soffrire qualcosa per tutte le piccole anime di cui dobbiamo occuparci mi ha reso felice al di là del possibile. Ne ho pianto, dice la nostra santa. Ne ho pianto perché nella messa mi sembrava che Dio mi dicesse in fondo al cuore: ecco un piccolo tesoro di grazie che ti destino se sei fedele a sacrificarti in tutto per le anime. E allora ho detto sì. Ho detto sì con tutto il mio cuore. E Gesù, cari amici, non tarda a prenderla in parola. Il 20 settembre si riunisce nella comunità il primo capitolo generale, pensate, e all'unanimità Suor Francesca di Sales viene eletta prima superiora generale dell'istituto. Così, a 28 anni, ha sotto la sua responsabilità 10 postulanti e 4 novizie. Ma la preoccupazione è un'altra. Ci sono 14 professe delle suore di Santa Maria di Loreto che sono state appena accolte dalla sua congregazione. La giovane fondatrice deve integrare quindi con intelligenza e delicatezza le nuove arrivate, che sono tutte maggiori di lei sia per età che per vita religiosa. Cos'era successo? Che l'abbé Bossier, il fondatore di questa piccola congregazione, grande amico di Madre Maria di Sal della Visitazione, l'abbé Bossier prima di morire aveva chiesto, aveva espresso il desiderio che le sue figlie in difficoltà fossero unite alle oblate. E si fa l'atto ufficiale di unione firmato il 20 giugno del 72. Quindi le oblate si trovano di colpo presenti anche nella diocesi di Parigi e in quella di Versailles. Queste due case, che erano delle suore di Loreto, si aggiungono alle quattro opere della Champagne che loro hanno. E qui, quando tre mesi più tardi padre Brisson aggiunge alla carica del generalato anche, come se non bastasse, quella di maestra delle novizie, madre Francesca si trova alla testa di uno sciame di 34 religiose, di cui 8 novizie e 10 postulanti. Pensate, la congregazione ha soltanto 6 anni di vita. E il periodo che sta per seguire, cari amici, è fecondo, diciamo fecondo di grazie, di incoraggiamenti, ma anche di molti lutti, come vedremo, e soprattutto anche di tanti inviti a nuove fondazioni. Possiamo, tra le pagine di gioia, dire soprattutto, parlare del decreto di lode di Papa Pio IX, ricevuto nel 72. Decreto di lode per le due fondazioni, cioè sia per quello delle oblate che per quello degli oblati. E la benedizione del Santo Padre, con tutto l'amore, c'era scritto, del suo animo e dal più profondo del cuore, è un balsamo e un grande conforto per tutta la comunità. E comincia purtroppo anche la sequenza triste dei lutti. Sempre lo stesso anno, nel 1872, muore Suor Maria di Sal. Questa, possiamo chiamarla questa grande madre di questa congregazione, perché ha pregato molto per loro, per questa nuova congregazione. Ha donato molto delle sue sofferenze perché tutto riuscisse nel migliore dei modi. Muore nel 1872. 3 anni dopo, nel 75, il 2 agosto, anche Monsignor Avinè, testimone e protettore degli inizi, si vede costretto, e Monsignor Avinè, il vescovo di Troyes, si vede costretto per motivi di salute a lasciare la diocesi e a rinunciare alle sue funzioni. Sarà sostituito da Monsignor Pierre-Marie Courtet, accolto a Troyes il 10 dicembre dello stesso anno. E qui c'è una piccola nota. Madre Maria di Sal, prima di morire, fa a padre Brisson una predizione e dice che dovrà soffrire crudelmente per l'incomprensione del nuovo vescovo e dovrà addirittura lasciare la sua cara visitazione. Qui si parlava del suo ruolo di cappellano, di direttore spirituale del convento. E vedremo tra un attimo poi. Intanto noi siamo ancora concluso il 75, che a padre Brisson già arriva da Roma l'approvazione ufficiale della Congregazione degli Oblati, che viene posta sotto la giurisdizione della Santa Sede. Quindi i primi oblati possono fare la professione, e il 27 agosto padre Brisson, inginocchiato davanti al vescovo di Troyes, che per il momento è ancora Monsignor Avinè, nella sua cappella privata fa la completa e definitiva oblazione di religioso. Poi egli stesso riceve la donazione dei suoi primi 5 figli. È un'ora di grande gioia, di grande grazia. Questo periodo vede poi ancora la scomparsa il 7 febbraio del 78 di Papa Pio IX, presso il quale padre Brisson aveva trovato l'accoglienza più grande, più cordiale. Papa Pio IX sarà poi sostituito da Leone XIII, il Papa della Rerum Novarum e del grande rinnovamento cristiano nel mondo del lavoro. Qualche mese più tardi, ultima privazione della lunga serie, Monsignor de Ségur muore il 9 giugno del 1881. E qui questa morte prematura, pensate, non aveva che 61 anni, priva il padre di uno dei consiglieri più sicuri e fidati. Insomma, sono tempi di prove pesanti, ma ricompensate, cari amici, da un aumento di grande fecondità. Le postulanti sono numerose e madre Francesca di Sal, nel corso di questo generalato, ne accoglierà circa 60. Un personale sufficiente per soddisfare anche le domande di nuove fondazioni che ormai giungevano un po' da tutta la Francia. Ma il primo problema da risolvere è la scelta del genere di opera da stabilire per la casa di Parigi. Parigi era importante anche perché c'erano molte famiglie che dovevano far educare le figlie, quindi insomma, si cercava di dare una risposta cristiana a quello che era l'educazione di allora in una città come Parigi, che insomma dava di tutto. Finora, dicevamo, avevano trovato rifugio a Parigi, che la casa di Parigi era delle suore di Loreto, solo alcune orfane. Ora l'altra proprietà, che era non lontana da Orly, sarebbe stata più adatta ad accoglierle. A Parigi, appunto, pensavano di inserire un collegio, un pensionato. E arriviamo al 22 aprile del 1873. Si apre quindi il pensionato San Francesco di Sales. Anche le case dei padri Oblati si moltiplicano e richiedono anche la presenza delle suore. Proprio in questo periodo è terminato anche il mandato della nostra santa, e il mandato di superiore generale. Quindi, per consacrare l'unione con le suore di Loreto, la carica viene data l'8 ottobre del 79 a Suor Chiara di Gesù Tappen, che era la prima superiora delle suore di Loreto. La nostra santa è felice di cedere il posto e di ritornare a essere Suor Francesca, anche perché potrà dedicarsi pienamente all'organizzazione delle opere. E qui l'amore è una nota importante di cui è bene parlare, l'amore della nostra santa per Maria Santissima. Proprio quest'amore a Maria la porta a scrivere il 15 settembre del 75, che è proprio la festa della Madonna Addolorata, una preghiera bellissima, ma non è casuale, cioè probabilmente già presentiva questa cosa, come vedremo tra un attimo. Scrive a Maria Santissima questa preghiera: che non faccia alcuna azione senza essere unita a te, che non lasci passare alcuna occasione di dare a Dio, non importa in che cosa e come, ma che il mio amore offra incessantemente qualcosa al mio divino Gesù. La nostra santa, cari amici, sta per affrontare un periodo di durissima prova. E infatti, ben presto l'incomprensione, perfino il discredito, pensate, operano in lei quella maturazione dell'anima che nei santi, ma anche da noi, all'interno nostro un po' più più piccolo, quello che nei santi possiamo definire la purificazione. Quello che di umano poteva restare nei suoi progetti, nelle sue attività, nei suoi pensieri, sarà passato alla prova del fuoco affinché lei possa dire Dio solo. E il segno di questi avvenimenti è l'arrivo proprio alla casa madre dell'ex superiora delle suore di Loreto, che è diventata madre generale, no? E quante gliene farà passare, quante umiliazioni, quante sofferenze dovrà subire la nostra santa. Sofferenze che non sfuggono alle altre suore, ma da parte sua nessuna confidenza. Conosce troppo bene il premio di un'umiliazione offerta a Gesù nel silenzio. Lei non ha che un'ambizione, l'ultimo posto. Viene addirittura allontanata e inviata il 4 novembre del 1880 a St. Nicholas, nella casa appena costruita. Qui le ragazze, che circonderà di attenzioni materne, lavorano a giornata presso le famiglie private, benestanti, ricche naturalmente queste famiglie. Quindi queste ragazze si alzano prestissimo per un servizio faticosissimo e ingrato e non rientrano che alla sera tardi, senza aver avuto un istante di respiro. Ma sanno però che alla casa famiglia saranno attese, accolte e soprattutto amate. Trascorre un anno. In quest'anno, alla fine dell'anno, Suor Chiara di Gesù, decisamente non all'altezza di un compito tanto grande, dà le dimissioni. Ci si chiede se può Suor Francesca, in questo caso, essere di nuovo posta alla guida dell'istituto, ma stranamente padre Brisson non lo desidera. Non vuole, perché vuole affidare a Suor Francesca una missione delicata, cioè stabilire nel pensionato di Parigi quello che è lo spirito salesiano e le abitudini delle oblate, facendo così uscire il pensionato da una crisi sia spirituale che organizzativa. Arriviamo a venerdì 2 settembre 81, a 37 anni, Suor Francesca è sul treno che la conduce a Parigi. Senza voltarsi indietro, lascia in piena prosperità le opere operaie, cui ha dato 15 anni della sua vita, e dice: «Che la mia obbedienza sia senza limiti». Voi pensate, sembra un pacco postale, cioè spostato da una parte all'altra. Eppure, sempre nel grande silenzio, pur nella sofferenza, che offre a Gesù. Obbedisce. E qui dalle pensionanti a Parigi, dalle ragazze che sono all'interno, l'accoglienza che le fanno è piuttosto fredda. Infatti si chiedono cosa va a fare questa riformatrice. Temevano di uscire da quelle piccole comodità a cui ormai erano abituate, magari ce le toglie e pensavano con la scusa di dover risollevare le finanze del collegio. Insomma, deve subire con pazienza mille fastidi e opposizioni. Resta, diciamo, sconcertata per questo atteggiamento quasi di scherno nei suoi confronti, no? Distante, freddo. Sconcertata, ma si riprende subito e riprende le sue armi, come le chiamava, cioè la preghiera, la bontà, il sacrificio. In questo modo conquista i cuori anche più astiosi di queste ragazze. I cuori conquista e la fiducia, e non solo, si rivelerà anche una grandissima educatrice. La sua influenza si esercita dapprima proprio tra le suore stesse. Da vera discepola della madre Chapuis, di madre Maria di Sales, è convinta che la fecondità di un apostolato deriva dall'armonia che regna nella comunità stessa. E suor Francesca dà l'esempio, dicono di lei le suore. Era severa quando bisognava, ma non l'ho mai vista riprendere le ragazze con impazienza. Evita sempre di dar torto alle educatrici davanti alle allieve, tuttavia, se necessario, sa rimettere le cose a posto. Il suo sorriso amabile, e buono anche, mette le fanciulle a loro agio e dice in modo particolare però alle sue suore: agite con pazienza, con dolce fermezza e preghiera. Quando una fanciulla è conquistata dalla parte del cuore, si può domandarle tutto ciò che si vuole e lo farà, dice la nostra santa. E inoltre dice: necessario conoscere ciascuna e usare saggezza e comprensione. Dice: non bisogna mai domandare ad una bambina ciò che non si è sicuri di ottenere, e non fare mai di cose anche importanti e serie un affare di Stato. E lei stessa segue da vicino gli studi, si distribuisce i voti e, secondo il costume del tempo, consegna alle più meritevoli un nastro il cui colore rivelerà il lavoro e la condotta che si è svolta durante l'anno. E durante gli 8 anni passati a Parigi si reca comunque spesso a Troyes, dove c'è il fondatore, padre Brisson, e lui vuole sentire sempre il parere della figlia maggiore, perché purtroppo hanno avuto inizio le tensioni con Monsignor Corté. E questo a causa delle resistenze di padre Brisson, che non vuole limitare le sue congregazioni soltanto alla diocesi di Troyes, ma anche altrove. Invece il vescovo assolutamente non vuole. Lei, in effetti, la nostra santa, essendo a Parigi, non deve né rispondere ai penosi interrogatori che Monsignore infligge a più riprese a ogni suora della comunità, e possiamo dire che gli esami canonici arrivano addirittura, pensate, a far vacillare delle vocazioni. Addirittura anche l'abito delle religiose deve subire una modifica, perché il vescovo vuole così. Vista la situazione, diventa indispensabile il trasferimento a Parigi della sede della casa madre, per cercare di riportare un po' di pace, di armonia, di essere un po' più liberi. Naturalmente questo può avvenire, e avviene con il permesso del vescovo Corté di Troyes e del vescovo di Parigi. Intanto, nell'autunno seguente, dopo 18 anni senza grandi responsabilità, Suor Giovanna Maria Canuet diventa superiore generale il 15 settembre dell'84. Ma forse per mettere a confronto la sua capacità e le sue virtù con quella di madre Francesca, resta il fatto che da superiora anche lei umilierà in modo incredibile la nostra santa. E Santa Francesca di Sales scrive a questo proposito: il nostro buon padre, che era padre Brisson, parlandomi della comunità, delle difficoltà che stavamo per avere con Monsignor Corté e dell'elezione di Suor Giovanni Maria come Giovanna Maria come superiora generale, mi dice: figlia mia, lei ha cuore e volontà, ma Dio non è abbastanza il movente della sua azione. Bisogna essere veramente abbandonata e accettare per la sua santificazione e per il bene della comunità la croce che lei non può evitare. Vede, dice padre Brisson alla nostra santa, vede, io sono sulla croce, bisogna che la sopporti, faccia come me, soffriamo e lavoriamo insieme. Padre Brisson, cari amici, allude al più grande dolore della sua vita. Infatti gli è stato ritirato da poco l'incarico di cappellano della Visitazione e qui la predizione di Madre Maria di Sal si è adempiuta alla lettera. E soltanto nell'88 il dissidio tra Monsignor Corté e padre Brisson sarà, diciamo, chiuso e sanato a Roma, e all'uscita dall'udienza di conciliazione, dopo essere stato abbracciato da Monsignore, padre Brisson scrive nella sua agenda: Monsignore mi ha detto, padre Brisson, se avessimo avuto migliori consiglieri non saremmo arrivati a questo punto. E qui comunque durante tutti quegli anni suor Francesca aveva condiviso, alliviato anche nella misura del possibile, la dura prova del padre, offrendo preghiera, penitenza a Gesù, in modo particolare per questo. Dicevamo che la nuova superiora, suor Giovanna Maria, non evitava umiliazioni alla nostra santa, anzi, e per complicare la situazione questa superiora aveva trovato anche la complicità di suor Luisa Maria. Pensate, era una ex operaia delle opere che si era dimenticata che proprio suor Francesca, la nostra santa, l'ha tirata fuori allora dalla sua umile condizione, gli ha fatto perfino ottenere il diploma di maestra, che a quell'epoca equivaleva per una donna ad una laurea. Insomma, essendo poi suor Luisa Maria la maestra delle novizie, faceva pesare la sua autorità in modo cattivo, ma anche senza discernimento, riguardo alla nostra santa. Comunque l'opera cresce, c'è ancora gioia, accompagnata da uno stringimento al cuore. Infatti il 23 luglio dell'83 la nostra santa accompagna alla stazione le suore che partono per la fondazione nell'Africa del Sud. Tre oblate raggiungeranno padre Simon, già all'opera da un anno a Pella, nella regione del fiume Orange. E il 9 luglio dell'88, stessa emozione, lasciando partire per l'America del Sud tre giovani pioniere, di cui la maggiore novizia, pensate, le altre due postulanti, sono accolte a Riobamba, nell'Ecuador, da padre Davide, che è un oblato pieno di saggezza e di zelo. E suor Francesca seguirà per tutta la vita con predilezione particolare, materna, queste figlie, figlie partite per paesi lontani e che vivono in condizioni difficili che lo fanno per amore di Dio e delle anime, anime a loro affidate in nome dell'obbedienza. Intanto nel mese di maggio dell'87 padre Brisson è a Parigi, è sofferente, molto malato, anche perché molto anziano, ma come un tempo già San Francesco di Sales non sa rifiutare nulla. Intanto suor Giovanna Maria e suor Luisa Maria si accordano per sostituire la nostra santa anche a Parigi, quindi anche lì dava fastidio, per sostituire lei con una suora che di recente hanno formato a Troyes, ma che in realtà le ha soggiogate, e suor Maddalena di Chantal-Saclay. Insomma, per Leonie sarà un'amara sorpresa anche questo ulteriore allontanamento. Come successe la cosa? Alla fine dell'anno scolastico dell'1889, suor Francesca entra in ritiro a Morangy insieme a tutta la comunità per il ritiro spirituale. Lasciando il deserto e il ritiro, le suore ritornano a Parigi, ma lei il giorno stesso, e glielo dicono lì, è obbligata a rientrare a Troyes senza passare per Parigi. Insomma, possiamo immaginare, veramente era trattata in un modo incredibile. Insomma, una testimone, una suora che era presente alla partenza, ne rivela quella che era il dolore profondo, ma anche la forza d'animo. Scrive questa suora: ero salita un istante nella tribuna nel momento in cui la madre entrava in cappella. Si gettò davanti all'altare e la vidi piangere in silenzio. Quando discesi la incontrai. Appena mi vide, la sua fisionomia, che era profondamente alterata, cambiò d'improvviso per far posto a un sorriso materno. E lei, obbediente, e per amore di Gesù e in obbedienza naturalmente, torna a Troyes. Atrua riprende la direzione delle opere che aveva lasciato tanti anni prima, ma vi trova spiriti, persone prevenute e si sente più isolata di una straniera, lei che è la pietra fondamentale dell'istituto e comprende subito quale calvario la aspetta. Sperimenta cari amici più che mai questo consiglio del direttorio della congregazione che dice: le suore devono continuamente aspirare alla vera e sincera umiltà del cuore. Quando il mondo le disprezzerà, ricevano questo disprezzo come cosa del tutto conveniente alla loro piccolezza e come pegno prezioso dell'amore di Dio verso di loro. E suor Francesca non farà mai allusione alle vessazioni subite, neppure alle assistenti più intime. E su questo periodo di umile gloria della fondatrice le testimonianze sono abbondanti e concordi. La sua stanza trova un angolo sotto la scala, e là che riunisce anche le ragazzine del quartiere, abbandonate a se stesse, per insegnare loro a confezionare dei sacchetti di carta. Le bambine ne ricaveranno così qualche soldino, ma soprattutto godranno quello che è l'amore della nostra santa. Ma ci chiediamo come poteva padre Brisson permettere che si agisse in questo modo. Fa luce su questo una lettera di padre Poupard, un oblato, confessore proprio della nostra santa durante gli ultimi anni della sua vita. Dice padre Poupard: se il fondatore, cioè se padre Brisson, sembrò in talune circostanze trascurare alquanto la primogenita del suo istituto, è perché voleva purificarla col fuoco da ogni legame umano per unirla intimamente a Dio e la sua missione soprannaturale, pensate. E verrà infatti il giorno in cui il padre giudicherà che la responsabilità di maestra delle novizie assunta da suor Luisa Maria non le si addice, quindi la sostituirà affidandole un altro apostolato. Intanto, andando e venendo tra Parigi e Troyes, suor Francesca aveva seguito anche i felici cambiamenti operati nell'istituto. Col mese di settembre giunge anche il capitolo generale e suor Francesca, pur malata, questa purtroppo sarà una costante della sua vita, il Signore le chiederà per tutta la vita questo sacrificio di una salute molto molto cagionevole, pur malata ma sempre serena, lascia Troyes per partecipare al capitolo, pronta a mantenersi come sempre nel nascondimento e nell'umiltà. E qui avviene una cosa particolare. La notte precedente all'elezione, mentre nella sua cella e si disponeva al riposo della notte, d'improvviso udì distintamente una voce che le mormorava all'orecchio: sarai superiora perché voglio governare tutto. Stupita si era voltata, era sola nella stanza, nessuno era vicino alla sua camera. Pensò a un'illusione. Ma il giorno dopo venne eletta superiora. Ora comprende il perché io voglio governare tutto. Era Gesù stesso che voleva condurre la barca della congregazione. E sempre nella congregazione un'esplosione di gioia. Le suore anziane escono dal silenzio imposto dalla carità e dalla prudenza e non cessano di coprire di elogi la fondatrice, diventata ancora più grande ai loro occhi proprio a motivo degli anni di oscura dedizione. Le più giovani sono conquistate, hanno fretta di scoprire personalmente i tesori di questo cuore materno. Ma pensate, cari amici, proprio quelle suore che avevano fatto soffrire madre Francesca, sono le prime a essere circondate di premure. Anzi, hanno un posto d'onore in ogni circostanza e sono colmate di attenzioni. Non solamente sanno di essere perdonate, ma si sentono amate. A tal punto che un assistente della nostra madre, suora Amata di Sal, esclama un giorno: madre, ormai basta offenderla per essere veramente oggetto del suo affetto e delle sue attenzioni particolari. Voi pensate, cari amici, che il fatto che suor Giovanna Maria, che era, ricordate, superiore al generale, che sappiamo insomma come l'ha trattata, resti l'assistente di Santa Francesca di Sal, della nostra santa, la dice lunga a questo riguardo, eh? E fondatrice, madre Francesca lo è ora più che mai. Da questo momento fino al termine della sua esistenza invierà le oblate in più di 30 luoghi differenti, proprio in risposta ai tanti inviti che ella riceve. I viaggi si moltiplicano, i tragitti sono lunghi, faticosi, ma non misura la sua fatica. Per giudicare di persona l'opportunità di una fondazione o per consolidare un'opera, lei va personalmente a vedere. Non ascolta, va di persona, guarda, osserva e quindi decide. E le suore reclamano la sua presenza dappertutto e lei non si ferma, nonostante i sacrifici, le notti passate in preghiera. Va, rappacifica, consola, infonde coraggio e instaura una vita di autentica comunità, quella al quale lei teneva moltissimo, la cordialità e l'armonia all'interno della comunità, e mantiene lo spirito vero di San Francesco di Sal. E qui dall'Inghilterra all'Austria, dalla Svizzera all'Italia, passando per Grasse, Voiron, Parigi, è un'infaticabile viaggiatrice che solca l'Europa. E il primo viaggio in Italia si impone quando le oblate vengono invitate a Perugia a essere presenti proprio a Perugia acquistano una casa proprio nella città di Perugia. Sempre qui lei avrà la gioia e l'onore anche di ottenere per le suore perugine anche la visita di padre Luigi Brisson, anche se era molto malato ed anziano. E il suo zelo, cari amici, d'altro canto era un cuore pieno di Gesù, quindi, e il suo zelo, ci viene detto, era sempre più ardente, e soprattutto non cessa di rianimare l'entusiasmo delle figlie, in modo particolare quando le sue figlie le parlano delle difficoltà causate dall'uno o dall'altro gruppo. Conquistate, le dice, è la parola che ritorna spesso, e le suore comprendono. Amatele, sopportatele, pregate per loro, dice Santa Francesca, particolarmente per quelle che sarebbero meno simpatiche. E premurosa di rispondere a tutte le attese, realizza un desiderio di padre Brisson, cioè procurare alle signorine dell'alta società di Troyes, quindi delle famiglie più ricche, dopo la loro uscita dal pensionato, dei corsi per completare la loro formazione. Dice a questo proposito: i grandi della terra hanno bisogno, come i piccoli, del nutrimento salesiano, che poi è l'amore, in fondo, guardiamo San Francesco di Sal. Facciamo il possibile, dice, per essere ricche sotto questo aspetto e far partecipare ciascuno in larga misura. E qui c'è una cosa molto bella. I padri oblati si incaricano dell'insegnamento religioso, della letteratura e della storia. Le suore tengono corsi di taglio, di cucito e di disegno. E proprio le visite delle ex allieve fanno la gioia della nostra santa. Infatti, pensate che cosa bella. Il giorno del loro matrimonio vengono ad affidare il loro focolare alla loro famiglia, al Signore, nella cappella delle opere. Ma prima hanno l'abitudine, il giorno dell'addio, di fare davanti alla Vergine Maria la promessa di fedeltà agli insegnamenti ricevuti. E qui i tesori del suo cuore materno, della nostra Santa Francesca, si rivelano veramente inesauribili, in modo particolare, cari amici, quando sulla Francia soffia la tempesta della persecuzione religiosa. Padre Brisson da molto tempo ha sentito arrivare l'uragano e, con la luce proprio interiore, ha annunciato e aveva detto per tempo che proprio le sue congregazioni sarebbero state prese di mira per prime. E infatti le leggi di Émile Combé, che era capo del governo tra il 1902 e il 1905, leggi contro le congregazioni ecclesiastiche e l'insegnamento religioso, quindi col sequestro e la confisca degli immobili, miravano proprio a distruggere con gli istituti religiosi tutte le tradizioni cattoliche della Francia. Era una politica persecutoria condotta a fondo e con una cattiveria senza eguali. Padre Brisson aveva visto giusto. Infatti già nel 1901 si verificano le spoliazioni delle proprietà di Morangi e di Parigi. E la chiusura del pensionato sarà effettiva nel 1903, nello stesso tempo di quella di Saint-Nicolas, di Marcilly, di Peron e di tante altre case. L'olocausto, possiamo dire, finale, si compirà nel 1904, quando la casa madre sarà messa in vendita. E l'esodo. E qui possiamo immaginare l'angoscia che stringe il cuore di madre Francesca e anche delle figlie. E pensano anche a padre Brisson, che ha 80 anni. Cosa farà? Le questioni diventano urgenti e i problemi da risolvere sono molti, anche gravi. Dove si dice trasferire la casa madre? E poi, bisogna mantenere le professe con voti temporanei oppure no? E le postulanti e le novizie? Si deve rinviarle alle famiglie? Poi dove trovare i fondi per vestire in borghese quelle postulanti, novizie o suore che dovranno restare in Francia per tentare di salvare qualche casa? Sono a questo proposito necessari 25.000 franchi, allora era una somma enorme. Allora la nostra santa dice: creiamo una cassa della provvidenza. Ebbene, Il primo risparmio che vi viene depositato è di 5 franchi, dopo 6 mesi superavano i 25.000. La nostra suor Francesca resiste con tutta la sua fede, con tutte le sue forze in questa tempesta demoniaca. Intanto il fondatore decide di risiedere a Plancy. Questo ambiente familiare renderà meno aspro, diciamo, lo smarrimento, anche la costernazione di quello che stava succedendo. La scelta invece di un asilo per la casa madre è più difficile. La fondatrice è incline per Roma, ma prega. D'improvviso si fa luce nel suo spirito Perugia, dove la congregazione è già presente. Insomma, si decide per Perugia e si comincia ad organizzare, possiamo chiamarlo l'esilio, giornate spossanti, sistemazioni dolorose, interrotte dalle visite addirittura del liquidatore incaricato del sequestro, voi pensate dove eravamo arrivati, da quelle della polizia e delle prime partenze. Insomma, le suore passano da prima nella casa piccola, vicino all'entrata del numero 10, ci viene detto, dove c'era la casa, depositano l'abito religioso, voi pensate un po', e ne escono secolarizzate, quindi vestite in borghese. Poi una vettura le conduce alla stazione per riportarle a casa. Arriviamo a mercoledì 11 maggio 1904. Si arriva a Perugia, e qui giunge, in questo giorno, giunge la nostra Santa Francesca, giunge in città. A Perugia sono nella zona della Cupa, tutto è povero, esiguo, molto simile agli inizi dell'istituto. Suor Francesca ha una modestissima cella al primo piano che dà sul cortile, ma è di una povertà disarmante. Arriva nel frattempo anche l'approvazione delle costituzioni del suo istituto. Ottenuta questa grazia, si reca a Roma e per la quarta volta incontrerà San Pio X. Sempre il 17 maggio dello stesso anno, è introdotta con le sue compagne nella biblioteca privata del Papa. San Pio X, in piedi davanti alla sua scrivania, le riceve con bontà. Dopo alcune domande le dice: «Vi benedico, benedico il vostro istituto, le vostre suore, le opere e tutto ciò che avete nel cuore e nello spirito. Che questa benedizione, dice il Papa, sia per voi una sorgente di grazie e di consolazioni, come pure per tutte le opere di cui vi occupate». È di grande consolazione questa cosa. Arriviamo al 1907 e alla fine del 1907 a Plancy padre Brisson si indebolisce, sembra sfinito, e in effetti la nostra Santa Francesca si reca di corsa da Perugia, ritorna a Plancy, e qui il mattino del 2 febbraio del 1908 padre Brisson celebra il suo ultimo sacrificio e alle 10:40 il fondatore chiude gli occhi. Tuttavia, cari amici, la vita continua. La nostra santa vuol ripartire per l'Italia. Deve essere più che mai superiora e madre, visto che il padre non c'è più. Di ritorno a Perugia prosegue con suora amata la costituzione degli archivi dell'istituto. Scrive molto, soprattutto alle sue missionarie. Si interessa a tutti i dettagli, alle gioie, alle difficoltà. Dice: «Sarebbe bello pensare di imbarcarmi per l'America. Sento quanto sarebbe utile venire da voi». Missionaria nell'anima, riprende ben presto le sue peregrinazioni in Europa. Arriviamo al 1913, si avvicina Natale. Proprio in quei giorni, madre Francesca di Sal si inginocchia davanti alle sue suore. Domanda loro perdono, perdono di non averle amate abbastanza. La comunità è stupita, ma è commossa. L'indomani, 26 dicembre, durante la messa si sente gelata. Si aggiunge una tosse insolita. Febbricitante, deve mettersi a letto. Il suo stato non migliora, le sue figlie cominciano a preoccuparsi, soprattutto per la sua salute che è sempre stata cagionevole. Per alcuni giorni la situazione è stazionaria, ma il 31 dicembre è una brutta notte, piena di dolori, ma lei persiste nel non prendere niente dopo la mezzanotte per osservare il digiuno eucaristico. Una fede ardente, veramente grande, illumina il suo viso quando riceve Gesù, che è la sua forza nell'ultima prova. Il medico le diagnostica una broncopolmonite e l'angoscia stringe il cuore delle oblate. Madre Francesca da parte sua non si impressiona, ma si abbandona alle infermiere. Il suo confessore, il Barnabita Padre Orlandi, le dà la grazia dell'assoluzione e la benedizione dell'arcivescovo. Arriva anche un telegramma di San Pio X che le apporta molto sollievo. Il 9 gennaio la malattia avanza e le viene amministrata l'estrema unzione. Ma lei con insistenza esprime l'ardente desiderio di ricevere la Santa Comunione. Le figlie intanto si avvicinano una alla volta e contemplano questa loro madre in silenzio. Lei, dolce, serena, porta a compimento quella che è la sua vita. È il 10 gennaio 1914. Verso 1:30 del mattino, padre Pupart pronuncia a nome suo la formula dei voti. Suor Maddalena di Sal implora l'ultima benedizione per le opere, per le oblate. Lei promette da parte di tutte l'unione dei cuori, la carità. Dopo un momento di silenzio, padre Pupart riprende: «Madre, lei ha sempre avuto una grande devozione alla Santa Vergine. Recitiamo ora le sue litanie perché lei la sostenga e le venga incontro». Madre Francesca apre gli occhi. Un sorriso le illumina il volto. Quel sorriso è per Maria. Ben presto tutte le figlie sono attorno a questa loro madre, il cui respiro si affievolisce. «Gesù, vieni, ti amo». E Gesù, cari amici, riceve il suo ultimo respiro come un atto d'amore. Sono le 5 del mattino. La nostra santa ha 70 anni.